Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nata nel quartiere napoletano Vicaria, ha esordito al cinema in La Bella Otero, ma il primo ruolo importante è nel film Il prefetto di ferro di Pasquale Squitieri. Lavora poi con Nanni Moretti, Giuseppe Bertolucci, Nanni Loi, Damiano Damiani, Ricky Tognazzi, vincendo 2 Nastri d'Argento e 3 David di Donatello. Come cantante ha pubblicato numerosi album, cantati principalmente in napoletano. Ha al suo attivo anche una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1992. Ma la sua casa è soprattutto il teatro, dagli esordi da comparsa con Edoardo fino all'ultimo spettacolo in scena in questi giorni al Napoli Teatro Festival Italia, l'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Lei è Lina Sastri. Sì, il primo Brecht, io lo faccio una cosa piccolissima in questo spettacolo, io sono Jenny Resteron, che sono Jenny, quindi sono una partecipazione, come dire, un ruolo cameo. Però Jenny ha comunque sicuramente un suo forte significato nell'immaginario, insomma la prostituta è colei che lo tradisce, è colei che in fondo lo ama ed è colei che in fondo esce vittima da tutta questa situazione dal punto di vista psicologico. Parliamo sempre però di una favola brechtiana, come dire, non di retro psicologici drammaturgicamente troppo complicati. Mi fa piacere sicuramente farlo perché lo vidi da ragazzina. Ancora non facevo teatro, con la regia di Speller, con Milva Modugno, mi piacque questo personaggio, quindi farlo poi con Massimo Ranieri, che è un caro amico, un grande artista della mia stessa terra, e quindi mi fa piacere farlo, insomma, però ripeto, per me è una piccola cosa che faccio in uno spettacolo, una partecipazione in qualche modo. Maruzzello, Maruzzello, mi in un festival straordinario, molto importante anche per Napoli. Beh, sempre la cultura lo è per qualsiasi città, sempre che ci sia un festival internazionale in una città e quindi la possibilità che arrivino spettacoli importanti e belli da tutto il mondo è una possibilità per chi ama l'arte, insomma. E in una città come questa, che è piena di stimoli, di contraddizioni, di tante cose, è sicuramente una cosa in più. Quando a strada che porta a niente, e quando a strada che ancora mi fa, certo che a porta chi sto dormiente, non ci stanca mai. Come si sente ad essere spesso accostata alla sua città? Le fa piacere o lo trova un qualcosa che... No, guardi, è una cosa normale, è un po' semplice, è un accostamento, diciamo, un po', come dire, di primo livello, però è normale che avvenga. La mia città mi ha dato tutto quello che ho, non la città in sé, ma insomma la mia lingua, mia madre, i miei odori, i miei sapori, la mia musica. La musica della mia terra, che ho fatto in tutto il mondo e che continuo a fare. Anche a maggio sarò al Teatro Eliseo con il mio spettacolo musicale Per la strada. I ricordi, le sensazioni, io ho scritto La casa di Ninetta, che è dedicata a mia madre, che farò poi al San Ferdinando qui a Napoli in aprile, in cui si parla proprio attraverso la casa di questa donna straordinaria che era mia madre, che si chiamava Ninetta, dei sapori di questa città, degli odori, dei colori, dei suoni. Una città piena di contraddizioni e quindi di passato, presente e futuro. Mi ha dato molto. Il mio primo film importante è stato Mi manda Picone, ed era in qualche modo, no? Era a Napoli. La prima cosa che ho cantato pubblicamente è stato Reginella. Il mio debutto è stato Masaniello, uno spettacolo con le musiche di De Simone, con la regia di Pugliese. Il mio grande maestro è stato Edoardo e poi Peppino Paroni Griffi, con Piantissimi ambedue. Quindi, come vede, voglio dire, tutto quello che mi ha toccato e continua a toccarmi riguarda poi in qualche modo Napoli, quindi io devo essere grata a Napoli. Sei rimasto male, non ho detto. Quando dopo che se n'è andato il prete, mi sono alzata dal letto e la giuritta, Don Domì, tanti auguri, siamo pari tempi. Una pazza, sì, una pazza. Hai voluto costare la pace di quei 3 poveri giovani. Che uno è chi di 3 figli a più. E chi è? che è spinto Tic hanno a essere uguali tutti e tre. Tu capisci che l'interesse di mettere l'uno contro l'altro sono tre uomini. Ha citato Edoardo, è vero che io, poi sa, si leggono tante leggende, non so quante siano vere, che lei ha debuttato come comparsa però con Edoardo. Sì, era una comparsa, era una ragazzina, insomma, no, avevo appena fatto Masaniello, che avevo 17 anni, quindi subito dopo, era una ragazzina, facevo la comparsa, poi c'è stata una sostituzione, poi c'è stata una battuta e poi qualche cosa in più, poi c'è stato Natale in casa Cupiello, un altro paio di esperienze e poi vabbè, poi c'è stato il saluto con Edoardo che era anziano e che poi ci ha salutato a tutti quanti e se n'è andato, ma insomma è stata una grande fortuna averlo incontrato e poi tutto questo è continuato due anni fa con Filomena Marturano in teatro insieme a suo figlio Luca. O sangue è passato ancora, goppa sta terra amara, a morte si fa restina, o sfreggia diventa storia, o fiera scanna di pata innanzi all'occhio di creature, che agnano senza ricicli e vicerilli a nulla. L'Italia si accrescerà con l'acqua a raggi urangur, saranno cittadine senza nessun onore, saranno terre lontane e lacrime e bastimenti, o mezzo per scordare i torti e i tradimenti. La fortuna di incontrare dei maestri, i giovani ce l'hanno sempre più di rado. Sì, e devo dire che è veramente importante, l'incontro, come nella vita, sa? Non è che il teatro è un piccolo mondo, un po' come la vita, e in tutte le forme di arte, di comunicazione sono un piccolo mondo come la vita, e l'incontro con qualcuno che ti spiega le cose, che ti fa entrare in un mondo, che ti appassiona con la conoscenza, con l'esperienza, con la fantasia, con la generosità, e tutto questo è sempre più raro per i giovani che avvenga, è un peccato, e questa è la grande fortuna, l'incontro. Dai, ma signora, io stavo qua. Ma non ci sta. Vedete qualcuno d'aiuto, vedi? Scusate, per favore, solo un'informazione. Con tutta questa folla, ma mettetevi in fila. E Gesù, che vi costa un'informazione? Mannaggia, amor, mannaggia. Signor, permettete, fatemi fare a me. Prego. E abbiamo faccio passare ogni volta e... Ne monnezza. A disposizione. La signora ti ha chiesto un'informazione due volte. Veramente me l'ha chiesto una volta sola. E la seconda te la chiedo adesso. Ah sì? E qual è? Volevo sapere di mio marito. Si chiama Vicone Pasquale. L'hanno ricoverato qua? Ma vediamo. Si è bruciato con la benzina. Fino a mo' non risulta. Ma qua ne arriva una continuazione. Leggo sempre che lei ha dichiarato che il cinema italiano è avaro con le donne. Ma no, questo è un luogo comune, forse che io stesso ho seguito quando l'ho detto, non mi ricordo neanche di averlo detto. No, diciamo che non, è normale, il cinema è immagine, è seduzione e di conseguenza non soltanto in Italia ma in tutto il mondo se lei va a guardare è evidente che la seduzione poi passa attraverso la giovinezza, passa attraverso la bella donna. Il cinema è luce, il cinema è fortuna. Il cinema lo fa chi sta dietro la macchina da presa più che chi ci sta davanti e devo dire che con me non è stato avaro il cinema, io ho avuto 3 Davide Donatello, ho avuto 5 Nastri d'Argento, cioè voglio dire ho avuto moltissime cose dal cinema, per 7 anni ho fatto solo cinema e tuttora l'ultima esperienza è stata a Bahia con il grandissimo Peppuccio Tornatore e quindi è stata un'esperienza importante e poi Woody Allen che mi aspetta, voglio dire non mi posso molto lamentare, neanche con il cinema sono stata abbastanza fortunato, ricevuto. Sicuramente certo, che ne so, ci sono delle cinematografie come quella francese che raccontano di più a volte il mondo femminile, non sempre è facile perché se vai a vedere in tutto il cinema europeo e anche oltreoceano, ripeto, il cinema rimane luce e seduzione. È sempre più difficile, credo, anche per il cinema raccontare storie perché comunque viviamo in un mondo in trasformazione, con trasformazioni epocali, proprio di comunicazione, di immagine. È difficile cogliere che cosa poi raccontare. Una volta gli archetipi erano sicuramente più classici e più sicuri, l'amore, l'odio, la vita, la morte, rimangono gli stessi, anche oggi rimangono gli stessi, ma è più difficile raccontarli oggi. Una grande artista entra e, accompagnato dal maestro Vessicchio, eseguirà per voi una canzone che è qualcosa di importante non solo per Napoli. L'artista è Lina Sastri. È Maradona, è Maradona, bello guaglione, belle facce, belle corte, fermo le palle a muragni. Io forse ho sbagliato a rivolgermi a lei perché la devo chiamare commendatore. Sì, commendatore, sì. Come è stata questa? Buongiorno commendatore. Ma non lo so, guardi, devo ringraziare il presidente Napolitano che mi ha insignito di questa carica, quindi sono stata molto felice di ricevere il telegramma che mi comunicava che ero diventata commendatore, e quindi molto grata all'amatissimo presidente Napolitano. Napolitano è anche sicuramente sorpresa, insomma, di una carica così importante data poi a una donna, quindi mi ha fatto molto piacere, sicuramente mi ha sorpreso ed emozionato. Io poi vivo tutte le mie cose, diciamo, nella mia vita di lavoro che passa dal cinema alla musica al teatro, in qualche modo con non coscienza, è forse la cosa che mi salva, la mancanza di coscienza, non mi ricordo quasi niente, quindi la mancanza di coscienza mi salva ancora e mi fa in qualche modo sorprendere ancora, quindi questa è una grande, grande fortuna. La nostra protagonista di oggi era Lina Sastri, ci ritroviamo domani con una nuova voce in scena. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.